Buonasera o buongiorno amici e amiche ascoltatori alla Conquista del Gioco, il podcast italiano sui giochi da tavola gestito da dimostratori. Questo è il secondo episodio. Qui con voi ci sono Pietro e Claudio. Siamo tornati. Detto l'oscuro signore. Innanzitutto grazie a tutti quelli che hanno già ascoltato il nostro primo episodio. Se invece questo è il primo episodio che sentite del nostro podcast, recuperate quello precedente, visto che siete arrivati appena in tempo per iniziare questo percorso con noi. Oggi, in questo secondo episodio, parleremo diciamo, scoperte, sorprese a scatola chiusa, ovvero un gioco che abbiamo comprato a scatola chiusa senza informarci prima. E abbiamo avuto una bella sorpresa trovando un gran gioco e la controparte, ovvero un gioco che abbiamo comprato a scatola chiusa con tante aspettative e abbiamo trovato un gioco che non ci è piaciuto. Cosa ne dici, Sì, una Claudio? cosa, insomma, una meraviglia e un'oscenità dall'altra parte, ma adesso la stiamo mettendo un po' troppo Sì. sugli estremi, però molto spesso capita che giochi da tavola attirino con una bella scatola, delle belle descrizioni, e poi dopo non corrispondono a quello che c'è scritto. D'altro canto, a volte si possono trovare dei bei giochi. Diciamo che una bella grafica di copertina aiuta molto. Anzi, la cosa che aiuta di più sicuramente sono delle belle miniature ultimamente, visto che escono giochi con componentistica bellissima ma regolamenti nulli. Quindi, provate ad iniziare, Claudio, ti passo la palla con il gioco che hai comprato a scatola chiusa e si è rivelato una bella sorpresa. Ok, iniziamo col positivo, va bene, teniamo tutto per il gran finale, insomma. Tanto la gente non penso che voglia sentir parlare male inizialmente, quindi passiamo con qualcosa di più tranquillo. Dai, ci Allora. Certo. alterniamo allora. Ci alterniamo, facciamo positivo tu, negativo io, così facciamo un po' positivo, un po' negativo. Va benissimo. Ok. Allora, non molto tempo fa, diciamo 4-5 mesi fa massimo, sono andato a uno dei miei negozi di fiducia e ho trovato un titolo che mi ha conquistato dalla sua copertina. E già detto questo, sono andato a comprarlo. Ho avuto fortuna, cosa che non mi è successa molto spesso. Di solito ho trovato i giochi tremendi come quello di cui parlerò più tardi. Questo qui invece è stato un buon gioco ed è il caso di Medieval Academy, un simpatico giochino da 2 a 5 giocatori con una copertina veramente carina, ultra cartonesca, di un cavaliere che sta venendo disarcionato a cavallo durante un duello e la principessa che esulta per questo. E quindi già questo ti fa venire l'idea di volerlo comprare, anche perché la scatola è in rilievo in metallo ed è molto molto carina. Tra l'altro l'illustratore è Pierrot, quello di Ghost Stories. Esatto, c'è il nostro caro amico Pierrot. Come i giochi della settimana, cioè della puntata precedente, questo non è un titolo di quelli grossi, è un gioco più o meno dai 45 minuti, massimo proprio un'ora se si va lenti. È un giochino abbastanza semplice, è un buon entry level, cioè adatto a chi è già dentro un pochino dal mondo dei giochi, ma neanche troppo, per portarlo ad altri livelli, perché è estremamente semplice come gioco. Ha una grafica cartonesca veramente carina ed è un gioco che praticamente si basa sull'addestramento militare di un cavaliere nel classico medioevo fantasy. In pratica, ognuno di noi è uno dei fanti o cavalieri che devono superare varie prove per passare all'accademia, e il primo che ci riuscirà sarà il vincitore della partita. E tra queste prove abbiamo le cose classiche della cavalleria, come conquistare la principessa, superare l'esame di cavalleria o di fanteria, addentrarsi nella caverna del drago e sconfiggerlo, accaparrarsi il favore del re stuzzicandolo, oppure buttarsi sullo studio dei libri per evitare di perdere punteggi durante la partita. È un gioco di draft, quindi semplicemente si pescano delle carte, ogni turno si ha una mano di carte, se ne sceglie una e si passano gli altri dati ai giocatori finché tutti non hanno una mano completa, e di queste ne giocheremo quasi tutte tranne una, e queste carte saranno semplicemente gli step che andremo a portare avanti in una di queste tessere che rappresentano le prove dell'Accademia di Cavalleria. E a fine di ogni turno alcune di queste tessere si attiveranno attiveranno o poteri o daranno punti negativi o positivi in base al tipo di addestramento e se siamo più avanti degli altri in quello oppure o meno. Quindi è un giochino tremendamente semplice. All'interno della scatola abbiamo una simpatica cartoncino di pergamena che indica i turni di gioco, una bellissima Excalibur per il primo giocatore. E i disegni che utilizziamo per avanzare negli addestramenti sono molto simpatici perché sono carte numerate da 1 a 5, quindi che indicano i passi che facciamo, e più il numero si alza, più la carta guadagna qualcosa. Per esempio, nell'addestramento militare, abbiamo carte da 2 a 5, dove il fante inizia che per dire ha solo uno scudo di legno e una spadina, e con il numero 3 per dire, e nel numero 5 invece ha un'armatura completa ed è impavido e coraggioso. Nel numero 2 del re lancia le palle e fa il giocoliere, nel numero 3 gli offre del vino, nel numero 4 gli regge addirittura la corona, quindi ti fa vedere quanto ci tieni, diciamo, a portarti avanti o comunque ti sei evoluto nell'addestramento, quindi è molto simpatico perché si basa tutto semplicemente sul progredire in questo percorso e diventare il più grande cavaliere della storia dell'Accademia medievale. Sì, in effetti una volta tolta l'ambientazione è praticamente un gioco dove alzi dei parametri e basta, quindi potrebbe essere benissimo un gioco di estrazione petrolio se cambi l'ambientazione. Sì, o anche di accudire animali o avere il maiale più carino della fattoria, cioè Sì, potrebbe essere qualunque cosa. però ci hanno azzeccato. Però, più che altro, se sei un giocatore a cui piace giocare sull'interpretazione, ti ci immedesimi molto durante il gioco, perché tutte queste figure simpatiche, la principessa che è lì che sospira sulla torre, e tu sei lì in fondo che fai il cammino per salire sulla torre e ti metti un po' a recitare, a fare lo scemo, ci può stare. Se invece sei una persona che non riesce a entrare nell'anima del gioco, potresti anche non riuscire a vedere completamente l'ambientazione, vederlo come un gioco normale. Sì, La differenza è che se sei un... cioè, Dimmi, dimmi. se gli togli l'ambientazione diventa pandemic contagio, cioè poi se hai una malattia che alza dei parametri, è lo stesso gioco praticamente. Sì, cioè alla fine sono i disegni a rendere be più bello il A gioco. dare forza al gioco, sì. Però anche la meccanica non è così male. E l'unica cosa che volevo dire è che se sei un gamer alle prime armi, secondo me lo senti più bello come gioco perché ti può introdurre a certe meccaniche come la draft e quindi ti può piacere veramente tanto come gioco. Mentre se sei un giocatore che è già dentro al mondo dei giochi da tavola da parecchio tempo, potrebbe essere un gioco qualunque che puoi giocare così, ma potresti anche preferirne altri al posto di questo. Però secondo me è un buon gioco introduttivo anche questo. Sì, Che può conquistare chi ancora è un neofita. in effetti quando l'hai comprato io non gli davo una cicca, cioè non è che mi faccia impazzire, devo dire, però lo davo ancora peso perché era un gioco dove alzi dei parametri di base, quello che si vedeva. In realtà è carino e ha conquistato molte persone alla nostra situazione, visto che anche altri l'hanno comprato dopo averlo provato subito. Quella è la mia pecca, quando non lavoro come oscuro signore, vendo copie di giochi involontariamente. Bene, io avrei detto tutto sul mio gioco. Parlando di Medieval Academy, c'è giusto da aggiungere che l'edizione italiana è di Uplay, se non sbaglio, vero? Sì, esatto, Sì, e costa sulla trentina di distribuito da euro. Uplay. E in più è disponibile anche la promo in Italia, che è due tiles La strega. Esatto. aggiuntivi, la strega, sì, e la principessa alternativa. E una Giusto. curiosità, Adi? Giusto, giusto, adesso che mi hai fatto ricordare la tessera promo. L'altra particolarità di Medieval Academy è che ha tante modalità di gioco, perché se tu giri una tessera, il gioco comunque comprende, se non ricordo male, sette tessere, però ognuna ha una doppia faccia, quindi ti basta girarne una per cambiare completamente la modalità di gioco, cioè il funzionamento di quella tessera, quindi in realtà si può giocare molte volte con diverse variabili. Sì. Ok. Due curiosità che ho scoperto guardando l'account Borgenzic di Pierrot, cioè il profilo da artista, da board game designer di Pierrot, ha fatto i disegni anche per River Dragons, tra l'altro, che conosciamo bene io e te, e Sì. l'altro gioco che mi aveva sorpreso di vedere che ha fatto i disegni lui, questo momento non me lo ricordo più, perché... Ah, Dixit Odyssey, ha fatto anche delle carte per Dixit Odyssey. Vabbè, di lì ormai ci sono passati tutti E tra su l'altro Dixit. il suo avatar, cioè non il suo avatar, la sua foto nel suo profilo come artista, c'è cioè lui con la maglia di Wu Fang, il cattivo di Ghost Stories, è bellissimo. Ok, va bene. E questo era Medieval Academy, che come abbiamo detto è disponibile in Italia, quindi facilmente reperibile. Ora tocca a me, io invece avevo detto che avrei parlato prima del gioco che ho comprato a scatola chiusa e si è rivelato una delusione. Beh. Allora, anch'io ho un piccolo preambolo come hai fatto tu. Tutti gli anni noi ci rechiamo come la maggior parte dei giocatori, tra l'altro, poi essendo dell'Emilia Romagna per noi è anche più facile, ci rechiamo al Play di Modena, il festival, cioè la fiera del gioco da tavola. In quelle dei primi di aprile, e come al Play solitamente comprare giochi nuovi non conviene perché tolto una cosa, tolto l'altro, li hai pagati come comprarli in negozio online. Conviene Sì, però invece. cavolo, scusami un momento, però sono lì, sono le novità, sono appena uscite. Tu lo puoi far provare prima degli altri. Ok. Per le novità ci può stare, tipo il Day One di Terra Mistica, mi ricordo, esaurito e quello che vuoi. Roba che è sul mercato da 3 anni, non ha senso comprarla allo stesso prezzo in una fiera in cui hai pagato per entrare. Però al Play c'è un sottomercato dell'usato tramite i forum e i social network che è una cosa mostruosa, cioè proprio acquisti e scambi nei parcheggi. Quest'anno ho fatto una tripletta di giochi comprando anche alla cieca. Dei 3 giochi che ho comprato, uno lo conoscevo già e non c'entra con quelli di cui parlerò oggi, mentre gli altri due sono appunto il gioco che ho comprato a scatola chiusa e mi ha deluso, il gioco che ho comprato a scatola chiusa e mi è piaciuto. Allora, Scusa un attimo, ma ti sei portato almeno la pistola di Cash & Guns, dato che ti sei infilato nei vicoli a comprare i giochi senza qualcuno che ti proteggesse? no, non ero nei vicoli, ero nell'area Nel della tana parcheggio dei roulotte. goblin. Ero nell'area della tana dei goblin, abbastanza sicura quella, dai. Ah, poi con un nome del genere poi. sono, Vabbè, dai, ci sono andiamo tane avanti. peggiori, ci sono. Allora, il gioco di cui non parlerò stasera, che era uno dei tre, è Stellar Conflict. Giusto una piccola appunto, Stellar Conflict è uscito adesso come gioco commerciale, ma è stato per anni un print and play disponibile sia gratuitamente che in print on demand, mi sembra, della Cheapass Game. Però aveva un altro nome, non si chiamava Stellar Conflict, si chiamava Lightspeed. Ok. Oltre a Stellar Conflict ho preso il gioco di cui parlerò dopo e che rimarrà un mistero fino a dopo, e il gioco che mi ha deluso, che dalla copertina sembrava una cosa fotonica, che è Apocalypse Universe Galactic Arena, un Kickstarter, e questo già il mio primo gioco che viene da un Kickstarter, forse, forse. Sì, mi sa di sì. Allora, cos'è questo gioco? Apocalypse Universe Galactic Arena, altri non è che un normalissimo gioco skirmish di combattimento nell'arena futuristica, in cui ognuno si prende il suo personaggio, inizio partita, sceglie quale abilità avere, alcune sono monouso, alcune sono perenni, ad esempio ho 3 abilità di livello 1, 2 di livello 2 e una di livello 3, per dire, quindi Ogni personaggio ne ha disponibili molte e ogni partita puoi variare e cambiare combinazioni. E dopodiché ci sono le varie regole su come muoversi, come avere la linea di vista e come attaccare nell'arena. Poi ci sono vari ostacoli, campi di forza, le casse che si spaccano, i muri e compagnia bella. Fino a qui tutto normale. Qual è il problema del gioco? Il problema del gioco è che, a parte la grafica bellissima, l'ambientazione curatissima, perché dietro ogni personaggio, che tra l'altro sono anche tanti, c'è tutto il background di lui, della sua razza, il gioco non è assolutamente niente di che. È il solito gioco di combattimenti delle arene che vediamo dagli anni Ottanta, come può essere l'italianissimo Bloodmaster, che però Bloodmaster in più aveva una meccanica dell'iniziativa che è una cosa fantastica. No, D'accordo. quello è un gioco stupendo, non bisogna neanche toccarlo. Ok. No, non lo devi proprio confrontare con un Kickstarter. Va bene. A parte Bloodmaster, che vabbè, non si pronuncia Blood, vabbè, Sì, sorvoliamo invece, sulla perché è l'italiana, è Blood, con pronuncia. la O. Esatto. Sorvoliamo sulla pronuncia del sangue. Apocalypse Universe Galactic Arena è un gioco già visto che non aggiunge assolutamente niente di nuovo. È difficile da spiegare ai novizi perché ha tante regole, di quali molte superflue, e soprattutto se giocato in tanti è solo confusionario. Quindi, cioè, un gioco così che ti dà 10 personaggi, tutti diversi, la possibilità di giocare in 10, no, in 10 forse no, aspetta. Insomma, e non lo puoi giocare al massimo fino a 6 giocatori, non lo puoi giocare al massimo le sue potenzialità perché diventa una confusione assurda e basta. Spiegarlo diventa difficile perché ha delle regole superflue. Insomma, hanno voluto fare di un gioco semplice una cosa complicata ed è venuto fuori un gioco che non risulta neanche essere divertente alla fine e niente di nuovo, semplicemente è bello da vedere. E se avesse avuto le miniature, avrebbe avuto quella cosa in più perché i design sono veramente belli. Invece ha degli standees con i volti dei personaggi, molto belli i disegni, però le miniature qui ci sarebbero state proprio ad hoc. Per il resto non c'è nient'altro da aggiungere su questo gioco. Dopo la prima partita, che abbiamo giocato a 6 giocatori, ovviamente, a squadre, abbiamo dovuto mollare perché era diventato pesantissimo. Ti ricordi, vero? No, perché io dopo il primo turno ho ceduto per giocare piuttosto a Lift It, che è un grandissimo gioco strategico. Non è andata proprio così, però sì, cioè, diciamo che sei stato forzato ad andare a giocare a Lifted, non è che Ma hai forse è scelto. stata la mia salvezza. Vai, non è così terribile sto gioco, però diciamo che se avete già provato giochi di combattimento in arene, questo sicuramente non vi colpirà. Non è, cioè, per giochi come Tannhauser sono veramente superiori, ma anche solo, che tra l'altro è la cosa più brutta del gioco, secondo me, l'arena, la fase arena di Spartacus è più bella di questo, che la fase arena di Spartacus è No, tremenda. ma ce l'hai con me stasera? Stai prendendo fuori i migliori titoli di fine serata? Allora, Spartacus è bello. Non mi toccare la terza fase, la fase ignorante di Spartacus, come la chiamo io. Va bene, Spartacus è un bellissimo gioco di magheggi, però quando arrivi alla fase arena diventa il peggiore dei giochi amatoriali, veramente C'è un tremendo. motivo se la chiamo fase ignorante, Va infatti. bene, dai, va là, chiudiamola qui. Allora, di curiosità, su Apocalypse Universe Galactic Re, non riuscirò mai a pronunciarlo, non mi viene in mente niente, se non sbaglio il gioco è greco, forse è quello, giusto che in Grecia non fanno molti giochi da tavola. Questo è uno dei pochi casi, forse. Non so cosa abbia detto, vedo Cioè, che Dice Tower l'ha recensito, non so cosa abbia detto, come si chiama, Tom Vase l'ha proposito, boh. Chissà se è la sua d'accordo. opinione non è importante, è più importante la nostra. Ok, va bene. Vai, pa passo la palla di nuovo perché ho parlato di questo gioco. Che tra l'altro, aggiungo un'ultima cosa. È difficile da trovare essendo un Kickstarter. Penso che non sia uscito fuori da oltre, cioè, oltre ai Baker non sia facile da trovare. Ci do un'occhiata. Intanto inizia pure. Ok. Allora, Allora. l'ho visto. Prego, attendiamo Riscontri, attendiamo la riscontri. E news. Sì. riscontro è sì, si può trovare e il costo è 45 euro. Io l'ho pagato meno della metà, per fortuna. Ah, terribile. Però vedo una curiosità, vedo che l'edizione che vendono è leggermente diversa dalla Kickstarter Edition, niente di che, è più che altro la forma della scatola. Però tutto qui. Bene. Ok. Bene, siamo passati alla parte calda della serata, perché adesso si parla solo male. Almeno finché non ho finito di parlare io. Abbiamo già parlato male in precedenza, ma proprio con le pinze, dato che non si è detto poi tanto male del gioco precedente, ma del prossimo ne parleremo estremamente male, come piace a noi. Prima di passare al gioco, un annuncio per i telespettatori. L'ultima volta eravate solo 10, spero che vi moltiplicherete questa volta perché abbiamo bisogno di audience. Di odio. Bene. E di odio e di audience, perché qui nelle oscure terre dell'oscuro signore non si paga nient'altro che con l'odio e l'audience. Dunque, andiamo avanti. Il titolo di stasera, il titolo negativo di stasera, è un gioco che comprai per la bella scatola, come sempre del resto, ma soprattutto per la curiosità e diciamo il modo di presentarsi che aveva il gioco in sé. Cioè, è un gioco che si presenta per tanti giocatori con una meccanica molto particolare, soprattutto di interpretazione, che però cade molto in basso quando il gioco è stato acquistato, Ho capito cos'è. perché ti rendi conto che in realtà ti hanno preso in giro, perché metà delle cose del gioco non le puoi fare praticamente. E questo gioco è l'ultimo banchetto. Ta-na-na-na. Come dice la scatola, un gioco di società di intrighi, complotti di corte per 6 e 25 giocatori. Ed è proprio quel 6 e 25 giocatori che mi ha detto: ah, oh, me lo compro, tanto io di solito tavole da 7-8 persone li trovo. Ma qual è il problema del gioco? Ci arriviamo subito. Il gioco ha 6 scenari, di cui solo uno è giocabile da 6 a 10 giocatori. Tutti gli altri richiedono almeno dai 10 giocatori in su. E l'unico scenario che chiede pochi giocatori è lo scenario più, diciamo, blando e privo di meccanica del gioco. In realtà di meccanica no, è privo dell'aspetto positivo che aveva il gioco in sé, cioè la recitazione. E l'ultimo scenario del gioco non ti dà minima recitazione, semplicemente è una mini giochino tattico dove bisogna scambiarsi i posti contro una meccanica che muove gli avversari. Quindi è un scenario dove devi giocare contro il gioco, mentre gli altri scenari sono scenari a squadre dove ognuno recita il suo personaggio, che è il punto focale del gioco, perché il gioco sarebbe molto bello se non fosse praticamente minimo da 10 giocatori. In realtà non è proprio da 6 a 25, cioè se vuoi giocarlo da 6 fino a 10 tocca fare solo il sesto scenario, che è lo scenario più generico possibile, proprio triste. È quello il problema del gioco, perché sennò sarebbe un grandissimo gioco. Perché come si presenta l'ultimo banchetto? Con un sacco di personaggi con delle carte veramente belle come sono disegnate, dei ciondoli da dare ai giocatori per fazione, perché è un gioco di fazioni che si scontrano, un finto scettro da dare al re e vari altri oggetti, perché in questo gioco noi rappresentiamo un banchetto medievale con un re che chiama i suoi servi o amici di altri regni e festeggia non si sa bene cosa. E nei vari scenari, nella maggior parte dei casi, praticamente in quasi tutti, bisogna assassinare il re, vabbè. Quindi il giocatore che è il re è un po' sfortunato. E semplicemente è un gioco che si basa sullo scambiarsi di posti, e questo è un altro aspetto che può colpire negativamente il gioco, perché vuol dire che tu devi avere una bella sala grande con tante sedie. Perché se lo vuoi giocare nel vivo questo gioco, un minimo 10 giocatori li devi avere, quindi deve essere veramente una bella tavolata. Io purtroppo l'ho giocato solo una volta, non sono riuscito neanche a concludere la partita, è stata molto bella, Ricordo. però è stata solo quella volta, perché? Perché è praticamente impossibile trovare una decina di giocatori che si metta lì un'ora e mezza a giocare a un gioco interpretativo. Cioè, almeno per me non è così semplice. Sì, E il e problema è quando sono andato a oltretutto, vedermi. Dimmi, giocare Paolo. tipo il venerdì sera in associazione in un gioco interpretativo così rocambolesco dove devi muoverti è impossibile. Sì, infatti il problema è quello lì. È un gioco che io ho preso perché ho detto da 6 a 25 si può giocare, ma in realtà è da 10 a 25, come ho già detto prima. E questa è veramente una grande delusione. Perché se non fosse per quello sarebbe veramente un gran gioco. Molto carino. Invece è deludente sotto ogni aspettativa. Cioè, almeno sotto questa aspettativa. Perché lo scenario che ho giocato era anche divertente. Soprattutto perché. Quello che sedeva di fianco a me al tavolo era stato trasformato in un sasso ed ero fiancheggiato da un giocoliere in braccio a una donzella che cercavano di assassinarmi. Sì, quella sera è stato molto divertente. Io ero la principessa, se non ricordo male. Probabilmente sì, c'è stato un grande scambio di sessi. No, eri la regina. Ah, sì, è vero, ero sua maestà. Del resto. Ottime componenti, più che altro token e carte, i 20 medaglioni di fazione, perché come ho già detto il gioco ha due fazioni, quindi sono 10 medaglioni della rosa e 10 medaglioni della fazione della torre. Il concetto è bello, il problema è che è il classico gioco che ti frega col numero di giocatori, cioè ti prometto una cosa, ma ok, quella cosa c'è, però in realtà è studiata abbastanza male. Perché non entra nello spirito del gioco. Sì, è praticamente ingiocabile in realtà. Sì, è praticamente impossibile. Infatti, la mia copia è stata usata solo due volte: una volta da me e una volta l'ho prestata a un mio amico per una festa. È ingiocabile per due motivi principalmente. È difficile già radunare tutte quelle persone ed è difficile trovare un posto in cui poterlo giocare come si deve, ovvero dove tutti si alzano, si muovono, interpretano. Cioè, la partita in cui abbiamo fatto noi. Ce ne siamo fregati delle altre persone che in quel momento erano in associazione e abbiamo anche Beh, improvvisato una sala da ballo medievale. mi sembra giusto. Dopotutto, se l'oscuro signore vuole giocare, nessuno deve interrompere i giochi. Eh sì, è giusto così. Sì, quindi è un titolo che è stato molto deludente per questo aspetto. Molto terribile. Posso dire un'altra cosa negativa a favore e contro questo gioco? Certamente, si Il parla solo rapporto male. componentistica costo è altissimo, cioè dentro non c'è quasi niente, la scatola e costa 40 euro il gioco. Oddio, no, guarda che mi pare sia sui 30 il Costa gioco, 40. eh. Ah sì? Sì, Allora io lo pagai di meno. edizione italiana della Giochi Uniti. Sì, i giochi unti questa volta non l'hanno scampata bene. Bene, bene. Si può veramente dire che questo è veramente l'ultimo banchetto, perché non penso che abbia alta rigiocabilità, quindi è l'ultima volta che. Gli ho dato una possibilità. Sì, è un peccato che è lì che prende la polvere da mesi e mesi, ma mi sa che rimarrà lì, purtroppo. Ma forse per un oscuro capodanno, qualcosina, adesso vedremo. Sì, forse sì. Ok. Sperare, non serve a nulla sperare. Bene, abbiamo parlato male e adesso purtroppo si parla bene. Sì, Prego. dovremmo riparlare bene in teoria. No, non in teoria, sicuramente. Allora, in realtà c'è anche da parlare male di questo gioco, ma è un rapporto complicato. Torniamo ai giochi comprati, ai giochi usati comprati a scatola chiusa al Play di Modena. E l'altro gioco è il particolare Black Sheep and White Sheep. Black Sheep and White Sheep è un gioco cinese che principalmente è distribuito da Board Game Geek. Nello store di Board Game Geek, oltre alle promo, ci sono anche alcuni giochi che vengono distribuiti in America da loro. Più che altro sono giochi asiatici, infatti, sono tutti particolari. E c'è anche questo Black Sheep and White Sheep. Che tra l'altro vedo adesso che ha anche un'edizione che è diversa dalla mia e che è più sensata perché ha i meeple in legno invece dei token. Allora, dicevo che questo gioco anche degli aspetti negativi. L'aspetto negativo del gioco è il regolamento che è scritto non male di più. Praticamente gli ideatori del gioco hanno preso Google Traduttore, e non sto scherzando, e hanno tradotto dal cinese in inglese. Il regolamento non ha alcun senso, ci sono intere frasi che non hanno senso. Solo per Leggi, leggi capirsi, pure. le nostre pecore sono rappresentate da dei token a due facce, una faccia alla pecora è sulla sabbia, una faccia sull'erba. E nel gioco, all'inizio le pecore vanno lanciate per decidere qual è la faccia, il terreno in cui si trovano. Nel gioco la parola token dal cinese è stata tradotta in inglese in dice. Quindi quando tu leggi per la prima volta il regolamento, lui ti dice all'inizio della partita il giocatore lancia i suoi dadi e tu ti chiedi quali dadi? Non ci sono dadi nel gioco. Beh, a volte alcuni giochi, perché l'ho visto in passato, richiedono dei dadi e non li comprendono nella scatola, Quindi poteva essere possibile. Sì, effettivamente poteva essere, ma per fortuna non era così, era solo una pessima traduzione. Il problema è che nel gioco, almeno nella mia copia, c'era sia il regolamento, il primo fatto così con Google Traduttore o il traduttore che vogliono loro, comunque non tradotto da una persona, quasi sicuramente. Più un secondo regolamento, questa volta fatto in versione flyer, non un libretto spillato, ma un foglio pieghevole. Sempre comunque stampato bene, impaginato bene, tradotto da un essere umano perché le frasi avevano senso, ma come dire, gestito male a livello di spazi, di composizione, perché le cose vengono spiegate in ordine sparso quasi e mancano certe, alcune cose mancano proprio. Quindi abbiamo un regolamento che è totalmente illeggibile e un altro regolamento che spiega male il gioco. Per poter capire come funzionava il gioco ci è voluto molto tempo e leggere le opinioni della gente su internet o le varianti della gente su internet per finalmente capire come giocare questo Black Sheep e White Sheep. Che alla fine, dopo tutte queste peripezie di regolamenti tremendi, si è rivelato un bellissimo giochino. Di Cioè, la prima dadi? Ci volta. sono i dadi? Ok. No. No, Tu ma ci hai io giocato? l'ho giocato, ma senza dadi. Magari c'è anche la variante con i dadi. Lo dice il No, regolamento. non Sì, ci ho giocato. dovrebbe esistere la variante con i dadi. Vedo qua che qualcuno usa i meeple, però non so se sia una versione custom oppure boh, chi lo sa. Comunque, tornando al gioco, spiegandolo brevemente, praticamente ognuno in questo gioco ha le sue pecore che devono raggiungere il lato opposto dell'isola, perché ognuno ha davanti a sé una riva che con un ponte raggiunge un'isola centrale che collega i quattro giocatori o meno se si gioca in meno, e poi con un altro ponte porta il giocatore che tu ti trovi di fronte. Quindi il tuo scopo è portare le pecore nella riva del giocatore che è di fronte, quindi attraversare il ponte, l'isola centrale, altro ponte e poi riva. L'unico problema è che è un gioco che come Camel Up prevede il fatto che le pecore salgano una sopra l'altra come i cammelli di Camelup e quindi si trasportano tra di loro. Se tu sali su un giocatore che dalla tua sinistra sta cercando di andare alla tua destra, perché comunque ognuno va davanti, deve arrivare davanti a quello che al giocatore che stava di fronte, rischi di trovarti le tue pecore trasportate sul fronte sbagliato. E a fine partita le pecore che sono arrivate sul lato sbagliato valgono punti negativi. Quindi bisogna stare attenti e gestire bene i propri passi. La meccanica principale del gioco è il fatto che le pecore sono su un terreno di due tipi, possono essere fronte erba o fronte sabbia. Questo viene determinato all'inizio partita lanciando i propri token pecora che cadono su un lato. Se tutti cadono sullo stesso lato si rilanciano perché almeno uno deve essere diverso. Dopodiché, durante la partita, una pecora quando si muove automaticamente salta tutte le pecore che hanno lo stesso terreno, quindi riesce a fare anche un passo che ti porta dalla riva opposta se in mezzo cioè, ci sono solo pecore col tuo stesso terreno, mentre appena vuoi fare un passo e davanti a te c'è una pecora con un terreno diverso gli sali sopra. Dopodiché però puoi lasciare durante il tuo turno nuovamente la pila di pecore, poi una pecora che è in mezzo a questa pila può andarsene portandosi dietro tutte quelle che è sopra, quindi è una gran confusione di pecore che vanno in giro e si portano sopra altre pecore. Le regole, inoltre il gioco ha delle regole aggiuntive, che delle varianti, ovvero il ponte che può franare se ci sono troppe pecore sopra. E in quel caso le pecore che cadono in acqua tornano nella riva di partenza, tornano nella squadra del giocatore. E l'altra variante è il macigno, perché nell'isola principale ci sono più spazi, quindi i giocatori non sono costretti immediatamente a salirsi sopra, perché ci sono fino a 3 spazi. Col macigno si chiude uno di questi 3 spazi. Questa variante dell'isola principale, la plancia composta con l'isola principale, comunque c'è solo da 3 giocatori in su. A 2 giocatori c'è soltanto il ponte. Però non ho mai provato la versione a 2 giocatori, quindi non saprei dire com'è il gioco in quel caso. Però il gioco in 4 è sicuramente il suo numero di giocatori, perché in 3 già inizia a essere un po' così. Il gioco in 4, secondo me, merita molto. La partita termina appena un giocatore ha portato tutte le sue pecore fuori dal campo, uscendo o dal lato giusto, e dai lati sbagliati, nel caso l'abbiano portato fuori. Comunque, quando tutte le sue pecore non sono più disponibili né per essere mosse o messe, essere messe in campo. Il gioco è tutto qui. Il prezzo è molto contenuto, perché se non sbaglio costa una ventina di euro. Adesso controllo. Guardo se è possibile trovarlo anche in Italia. L'unica cosa, bisogna essere pronti al fatto che il gioco ha un regolamento tremendo. E non comprende dadi. Male, Allora, sto molto male. dando un'occhiata in giro se lo trovo. In America costa una ventina di dollari. In Italia guardavo se qualcuno lo vende, ma mi sembra abbastanza difficile da trovare. Devi andare nei parcheggi come sei andato tu a comprarlo, è E l'unico modo. Le infatti, roulotte. me ne è valsa la pena in questo caso. Bene, questo era Black Sheep and White Sheep, che a quanto pare in Italia non è facilmente reperibile. Solo di contrabbando. Già, a quanto pare. Va bene, Beh. direi che ci siamo. Abbiamo fatto i nostri 2 giochi, la sorpresa e la delusione. La tragedia, la La commedia e il dramma. E quindi basta, direi che per oggi siamo qui, abbiamo finito qui. Sì, parliamo per il futuro. Considerando che di giochi di pecore ce ne sono una valanga, si potrebbe anche fare solo la categoria sui giochi di pecore. Preferirei di no. Ah, una cosa, il gioco di base, sempre Black Sheep and White Sheep, principalmente è ordinabile dal sito dell'editore, che è Mozzie Games, e costa 18 dollari. Fino al 24 settembre, dove ritornerà a costare 24 dollari, che beh, non c'è male. È possibile preordinarlo per Essen direttamente all'editore, se volete, se siete così fortunati ad andare a Essen più che altro. Oppure se volete spendere 16 dollari euro in più, vi comprate l'ultimo banchetto. Tra l'altro, la Mozzie Game, sempre loro, quelli di Black Sheep e White Sheep, hanno dei giochi in catalogo che sono molto carini. Con le pecore? No. Ok. Anzi, sono molto carini, almeno a vedersi. Vabbè, ma vi consiglio di andare a vedere direttamente voi il sito della Mozzie Game. E dicevi, i giochi di pecore. Tra l'altro, parlando di giochi di pecore, c'è un altro gioco di pecore con regolamento scritto malissimo, che è Panico da Pecora. Mi ci è voluta mezz'ora l'altra sera per riuscire a Beh. capire il senso del regolamento. No, quella è l'ambientazione del gioco, cioè se leggi il titolo è ovvio che vai in panico. Scusami un attimo, è un gioco ambientato, non è un gioco sbagliato. Hai ragione anche tu. Beh, Bene. bene. Quindi, hai qualche annuncio da fare per il prossimo episodio o facciamo una sorpresa sul tema la prossima volta? Se i 10-4 ascoltatori che ascoltano ci danno qualche consiglio come avrebbe dovuto fare la volta scorsa, non sarò costretto a prendere provvedimenti da oscuro signore. Se no, ci toccherà sempre agire di testa nostra. Però noi preferiremmo che sareste voi, che siete voi a darci qualche consiglio su di cosa parlare in futuro, cose che magari interessano a voi, o parlare di giochi che piacciono a voi, categorie, odio, oscurità, parlatene, chiedete. Certo, sono completamente d'accordo. A questo proposito, l'altra volta non potevamo darvi delle coordinate perché ancora eravamo in organizzazione. Il nostro podcast per ora esce su YouTube e su SoundCloud. L'account di SoundCloud è WarioPunk, giustamente, giusto? Sì, se volete cercarlo. Mentre l'account di YouTube è WarioPunk, quindi se cerca... comunque cercando La Conquista del Gioco podcast su Google si trovano molto facilmente. Consigliate il nostro podcast ai vostri amici, scaricatelo, abbonatevi, non saprei come dire, cioè abbonatevi nel senso di mettetelo tra i favoriti in modo che quando esce un nuovo episodio sarete avvisati. Noi speriamo di far uscire un nuovo episodio ogni venerdì almeno. E questo weekend noi saremo a Comics Popoli, la fiera comics di Forlimpopoli, sabato e domenica 3 e 4 settembre. Veniteci a trovare se siete in zona Emilia-Romagna. L'ingresso all'evento è gratuito, vi faremo giocare nello stand Area Games con la nostra ludoteca e i nostri grandi dimostratori. Chiedete dell'oscuro signore e non ve ne pentirete. Potrete giocare all'Oscuro Signore o a C'era una volta con Claudio. Quello magari dopo, prima l'oscuro signore. Basta, tutto qui. O dovevo dire qualcos'altro, mi sono scordato. Accidenti. Maledetta testa. Ok, direi che possiamo salutarci. Il secondo episodio della Conquista del Gioco. Abbiamo finito per stasera. Ciao da Pietro e Claudio. Buonanotte Ciao. e sogni oscuri per tutti.